delle chiese sulle acque. L'Aposa nasce sulle colline sopra Porta San Mamolo e il suo corso è lungo circa 7,5 km. Termina affluendo nel canale Navile, all'altezza del punto in cui si trovava l'antico porto del Maccagnano, nell'odierna via Bovi Campeggi. Durante il percorso incrociava l'attuale via Rizzoli ed è proprio qui che i Romani costruirono un ponte per permettere l'attraversamento del Decumano Massimo. Il ponte è ancora lì, ma nel sottosuolo, e al momento purtroppo non è possibile visitarlo. L'accesso a questa parte dei sotterranei di Bologna non è consentito, in attesa di essere messo in sicurezza. Uno degli accessi ai sotterranei della città si trova a una delle estremità di Piazza San Martino. In un angolo del lastricato accanto ai parcheggi, infatti, è possibile scorgere una botola in metallo a forma di croce circondata da paletti. Si apre collegando un'apposita chiave elettronica in dotazione alle guide e al personale comunale, scoprendo una ripida scalinata che conduce all'alveo sotterraneo dell'Aposa. Ci troviamo nei pressi dell'incrocio tra via Marsala e via Oberdan, dove sorge la chiesa di San Martino, detta appunto in Aposa, un tempo accessibile tramite un ponticello di legno. Si tratta di un complesso monumentale estremamente significativo, le cui origini risalgono agli inizi del cristianesimo, quando l'esistente tempio romano dedicato a Marte venne convertito al nuovo culto. Fu ampliata nel 1293, quando venne affidata ai frati carmelitani e divenne il loro convento. Nel corso dei secoli la chiesa è stata decorata dai più grandi artisti, che l'hanno resa una vera e propria galleria d'arte. Si tratta di una delle tappe più straordinarie dell'itinerario di qualsiasi visitatore che desideri conoscere le bellezze nascoste della città. All'interno di San Martino è conservato l'affresco della Natività di Paolo Uccello, una delle rare tracce del primo Rinascimento toscano in Emilia. È stato rinvenuto casualmente durante un restauro della sagrestia e, sebbene sia stato parzialmente compromesso dal tempo, è oggi collocato sulla navata sinistra. Sulla destra del presbiterio c'è l'organo cinquecentesco, ancora perfettamente funzionante. All'interno della chiesa sono presenti altre opere particolarmente degne di nota, tra le quali una statua della Madonna con Bambino di Jacopo della Quercia, una statua della Maddalena di Giacomo Pio, un ritratto di San Girolamo di Ludovico Carracci, una tavola di Francesco Francia e una scultura policroma che raffigura la Madonna col Bambino realizzata in legno da Guglielmo Bergognone e colorata dal Guercino. La Cappella della Madonna del Carmine è un piccolo capolavoro del barocco ed è stata realizzata da Alfonso Torreggiani. Particolarmente suggestivo il chiostro, su cui si affacciavano le finestrelle delle celle dei frati. È detto chiostro dei morti perché era l'antico cimitero del convento ed è formato da due portici sovrapposti. Quello inferiore conta 24 colonne cilindriche con capitelli corinzi, con le pareti decorate da epitaffi e ornamenti in terracotta, mentre quello superiore 35 colonnine in arenaria. Dal chiostro si può accedere all'ex biblioteca del convento, oggi convertita in teatro. Qui è possibile ammirare il grande affresco seicentesco di Lucio Massari, allievo del Carracci, le cui opere sono esposte nei più grandi musei del mondo. L'affresco rappresenta la disputa di San Cirillo d'Alessandria e conta ben 60 figure. Il teatro, in tempi recenti, è stato sede delle lezioni del professor Umberto Eco. San Martino è in grado di suscitare un'avvolgente sensazione di spiritualità in chi la visita, per la bellezza degli interni e per i giochi di luce e ombre creati dalle strutture. Altrettanto ricco di suggestioni è il percorso delle cosiddette quattro chiese delle acque, un cammino che collega gli edifici sacri che in passato si affacciavano sul canale del Reno. Si parte da Santa Maria della Pioggia, che si trova nella piazzetta della Pioggia, dove via Riva di Reno si incrocia con via Galliera. La chiesa era un tempo intitolata a San Bartolomeo di Reno, dal canale che vi scorreva accanto. Il cambio di attribuzione avvenne nel XVI secolo, quando, durante i lavori di ristrutturazione dell'adiacente oratorio, a seguito di un incendio, venne ritrovata la tavola quattrocentesca, realizzata dal pittore Michele Di Matteo, miracolosamente intatta. Si tratta del dipinto La Vergine della Pioggia, che raffigura una Madonna con Bambino circondata da 7 teste di angeli. L'icona si lega ai fatti avvenuti nel 1561, quando Bologna venne colpita da un lungo periodo di siccità. In questa occasione le autorità autorizzarono la processione della Vergine della Pioggia, a cui la popolazione partecipò in massa e con grande devozione. Si racconta che nei giorni successivi la pioggia sia caduta copiosa, salvando i raccolti. Da quel momento si propagò il culto della Vergine della Pioggia, che tra i suoi fedeli poté contare su personalità di spicco come il cardinale Lambertini, che diventerà Papa Benedetto XIV, e il cardinale Oppizzoni, celebre oppositore di Napoleone Bonaparte. Seguendo il corso del Reno fino a incrociare Via delle Lame, si incontra la seconda delle chiese sulle acque. Si tratta di Santa Maria della Visitazione al Ponte delle Lame. Un tempo circondata dai guazzatoi delle lavandaie, questa chiesa fu costruita originariamente addirittura su un ponte. È qui, infatti, che nel 1527, durante un'epidemia di peste, i fedeli si radunavano in preghiera dinanzi all'icona della Madonna di Maria ed Elisabetta, madre di San Giovanni Battista, posta proprio sul Ponte delle Lame. Una volta passata l'epidemia, il ponte venne ampliato per costruire una chiesa all'interno della quale conservare l'icona sacra. Sorge lungo il corso del Reno, in via San Felice, la terza chiesa sulle acque, Santa Maria della Carità. Mentre proseguendo fino alla grada in cui il canale di Reno entra in città, si incontra l'ultima delle chiese sulle acque, Santa Maria e San Valentino della Grada. La Madonna Nera.